Check. Di tu bap, squiti bamap, skutu tu tap, di ti tu bap, papa pu pu pu bap, skululu bapa lalu di bulu di bulu di bulu di bulu di bulu di bulu di bulu di bulu. Yep. Woo. Yeah, yeah, yeah. Wow.